crescere con odore soave, gettare ammoniera dove tutto tace. Nascere con odore soave, gettare ammoniaca dove tutto è in pace. A piedi nudi su spiagge di vestiti bagnati dai nostri stanchi movimenti, ci sentivamo impacciati. Instabili le emozioni, ci ricoprivano i suoni e ci guardavano negli occhi. Inardirsi nelle fabbriche, nascondersi sui tetti a coltivare i morti sul lavoro. Inardirsi nelle fabbriche, nascondersi sui tetti a coltivare i morti sul lavoro. Cercando di vomitare emozioni per illuminare il tuo viso, come lacrime del sole anche i precari vanno in paradiso. E uccidere canzoni per strapparti un sorriso, anche i precari come lacrime del sole vanno in paradiso. A surfare sul petrolio con tsunami impazziti in cerca di celebrità. Ci sentivamo aridi e mangiavamo solo sushi. Passeggiare su spiagge di vestiti rubati, i giovani immigrati italiani non esistono più. I giovani immigrati italiani non esistono più. Sonnolenti raggiungiamo Kyoto, a Copenaghen si respira aria pulita. Su treni sonnolenti raggiungiamo New York, a Seattle si respira aria pulita. Ci mischieremo coi lacrimogeni e parleremo al vento. Ci mischieremo coi lacrimogeni. Seguiti da camerieri delle grandi capitali, ci ritroveremo in quartieri impinati da troppa razionalità. I troppi ricordi disinfettati di oggi e di ieri ci deturpano il viso e non torneranno più. Voler rinascere con odore soave, gettare ammoniaca dove tutto tace. Cerco un odore soave, gettare ammoniaca dove tutto in pace.